Sono le 16.43 di un maledetto sabato 31 maggio 2008. Uno strano gioco del destino ha fatto sì che, dopo i miei adorati Motley Crue con Shaun of the Devil, tocchi proprio a me iniziare i saluti finali di questa esperienza. Io sono Max DeRio, ho vissuto gli ultimi 13 anni della mia vita con il cuore e con l'anima dentro gli studi nei quali mi trovo in questo momento, solo, al buio, con un po' di persone che spero mi stiano ascoltando e verso le quali mi sento in dovere di dire alcune cose. Innanzitutto delle scuse, perché gli ultimi 2 mesi che abbiamo vissuto, come potete immaginare, visto che abbiamo condiviso tutte le emozioni insieme a voi, sono stati trascorsi con la scelta giustissima, e questa ultima settimana ne è il giusto esempio di quello che è successo, di chiudere questa esperienza da parte nostra a testa alta, con l'orgoglio di aver fatto per 18 anni quello che era giusto fare, quello che abbiamo sempre ritenuto la cosa più importante, il rock and roll. Questa radio ha parlato per 18 anni di musica, questa radio Rock FM è una radio libera, lo è sempre stata, forse anche per il disinteresse degli editori che nel corso degli anni si sono avvicinati a questo progetto. In ogni caso, noi abbiamo usato la libertà che ci è stata concessa sempre con giudizio, con intelligenza e con rispetto, parlando sempre solo esclusivamente di rock and roll. Le scuse che mi sento di fare nei confronti delle persone che ci hanno ascoltato sono quelle di una persona che ha cercato di essere positivo, felice, di trasmettere un messaggio che parlasse di musica e che celebrasse questa musica. Questa cosa l'abbiamo fatta negli ultimi 2 mesi, io personalmente, ma credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi, con un coltello piantato nel cuore, perché il dolore della fine di questo progetto è davvero grande. Dispiace, ed è giusto anche che in questo ultimo saluto si dica qualcosa su chi non ha capito questa cosa, chi non ha capito il cuore e l'anima che pulsava dentro Rock FM. E non è solo quella che batteva davanti a un microfono, è anche il cuore e l'anima delle persone che sono qui stasera sotto la radio e tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Dispiace davvero che il nostro editore, il gruppo Mondadori, nonostante abbia indossato un costume da ballerino di Sirtaki, non abbia capito questa cosa, ma del resto la sensibilità non è un elemento che sembra caratterizzarli. Hanno preferito credere e investire in una radio pensando di crearla e supportarla con delle campagne massicce pubblicitarie. La radio, sono convinto, si fa col cuore. A Rock FM l'abbiamo fatta per 18 anni con il cuore. Sono orgoglioso di poter essere qui davanti a questo microfono e di dirvi che ho scelto una canzone che rispecchia il mio stato d'animo in questo momento. Non smetterò mai di credere in un mondo migliore, non smetterò mai di credere nel rock and roll, non smetterò mai di credere. Don't Stop Believing, questi sono i giorni e questa è la mia ultima canzone. Ho amato Rock FM e la amerò per sempre, come tutte le persone con le quali ho lavorato e quelle che hanno amato con me Rock FM. Took the midnight train going anywhere. Buondì, mi chiamo Daniele Vaschi, ho 33 anni e da 10 anni lavoro in radio col nome di Ariel. Grazie a Rock FM ho conosciuto dei territori, ho conosciuto la Toscana, la Liguria, la Romagna, un pezzettino di Romagna, un pezzettino di Veneto, ho conosciuto Torino, che poi mi è stata tolta. Voglio ringraziare Rock FM perché mi ha fatto conoscere un gruppo di persone che con i loro pregi e i loro difetti mi hanno insegnato tantissimo. E voglio ringraziare te che stai ascoltando, ovunque tu sia, quando mi hai ringraziato perché mi sono svegliato presto alla mattina. A te che hai portato i tuoi figli in piazza e mi hai fatto capire che quello che stava succedendo non era giusto. A te che hai cantato con me Bohemian Rhapsody. E adesso, se vi va, vorrei cantarla ancora. Is this the real life? Is this just fantasy? Vorrei sentirvi cantare gentilmente, vediamo di non fare gli stupidi e andiamo a tempo, grazie. Operaio del rock and roll, andiamo sulla finestra gentilmente. Teniamo il tempo. Questi ultimi due mesi di gioia totale, vi ricorderò per sempre. Eins, zwei, drei, vier. Sgaramu, sgaramu, will you do the fandango? Galileo, Galileo, Galileo Figaro, magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. Where's in the gun for the non-society? Easy come, easy go, will you let me go? This will I go. She will not let you go, let him go. She will not let you go, let him go. Divertitevi! Io spero la stiate cantando anche voi in macchina, eh? Anche tu in macchina devi cantare, se no non vale il gioco. Grazie mille a tutti voi, mi avete regalato una gioia che non ha pari. Io credo in questo tipo di comunicazione libera e diretta. La nicchia vincerà. Cosa posso dire io più di quanto hanno detto i miei colleghi, i miei fratelli? Sono Mox innanzitutto, questo devo dirlo per qualcuno di voi che magari non ha riconosciuto il timbro della mia voce, visto che oggi tutti i nostri timbri sono mutati, sono diversi ovviamente e non potrebbe essere altrimenti. Tocca a me in questo momento accomiatarvi da voi. Quello che hanno detto loro ovviamente è quello che vi avrei detto io. Io posso solo aggiungere relativamente alla scelta del brano con il quale voglio concludere questa mia avventura meravigliosa, che coincide esattamente con il periodo più bello della mia vita, lavorativamente parlante, incontrando loro, condividendo delle cose che vi giuro mai nella vita avrei pensato di poter vivere. È retorica ma è assoluta realtà. Allora ho scelto un brano per voi in mezzo a tantissimi che conosco e che avrei voluto mettere, e alla fine ho fatto una sorta di spareggio tra un po' di brani e ne ho scelto uno di un gruppo italiano che quando l'ha scritto non sapeva che avrebbe scritto una verità ancora oggi a 32 anni di distanza. Mi riferisco agli Area. Gli Area hanno scritto questo album che si intitola Maledetti, non a caso, che contiene un brano che si intitola Gerontocrazia, che non a caso vuol dire il potere agli anziani. Anche se nel 76, nel 2008, il potere agli anziani, quelli sbagliati, purtroppo è ancora una fottutissima realtà. Allora, io ricordo benissimo la voce di Demetrio e questa meravigliosa canzone che voglio dedicare a tutti voi con tutto il mio cuore. Adesso e per sempre. Ciao, ciao e grazie da Mox. cuore mi lascia soltanto me. La violenza consumata nell'amore ti spinge incontro a me. Se tu guardi nel passato troverai tutto quanto stabilito e si chiama verità. Senza storia né memoria lascia che io scriva il padre tuo. Vivi in pace la tua vita, non pensare e sogna felicità. Matthews, sono qui in radio da 2 anni, penso di essere il più giovane DJ di tutti quelli che avete sentito oggi. Ho fatto per tutti i lunedì e tutti i mercoledì sera e anche il sabato sera delle volte GarageLand insieme al mio partner in crime, il mio complice Maurizio Farisi, che sentirete più tardi. E poi molti di voi mi conosceranno con il mio pseudonimo di Chuck Bird, che tutte le mattine dalle 6 alle 7 per un bel po' di tempo trasmetteva con Hurley Bird Special e poi con le pillole Backstage Pass. Allora, fino adesso ho sentito delle cose bellissime da parte dei miei colleghi, delle cose molto dolci, molto toccanti. Ma io non sono fatto così. Io sono una persona piuttosto cattiva. C'ho dentro l'amaro, c'ho qualcosa che mi brucia dentro, perché non credo che questa cosa sia colpa della società, colpa del sistema. Secondo me c'è una persona che è colpevole di questo, non ha un nome, non lo so perlomeno, ma ci sarà sicuramente in tutti quegli uffici che prima o poi noi tutti abbiamo visitato, che ha fatto qualche cosa di perfido, dicendo a un certo punto Rock FM deve chiudere, una persona. Ebbene, io me la prenderò con questa persona, di cui non so il nome, non è una persona vera, ma sono certo che c'è questa persona. Beh, a questa persona io voglio dire una cosa, che gli succede qualche cosa. Prima di tutto, vorrei che gli Slayer scegliessero l'appartamento di vicino al suo per farne una sala prove. Questa è una. Poi vorrei che il maglioncino rosa, perché è certo che questa persona indossa il maglioncino rosa allacciato al collo, io vorrei che questo maglioncino rosa fosse fatto di una lana che gli produce un'irritazione che lo trasforma molto velocemente in Marilyn Manson. Così che nemmeno il parroco lo vuole vedere, che nemmeno un esorcista può fare qualche cosa per la sua faccia. E poi molto seriamente vorrei che i suoi figli o i nipoti di questa persona un giorno si scoprano dei rocker, dei veri rocker appassionati, e che scoprono che il loro papà, il loro nonno, un giorno ha deciso di chiudere Rock FM. Allora questi ragazzini lo guardano e diranno: papà, nonno, non ti parleremo mai più. E così. Buoni. Non gli parleranno mai più. E allora lui avrà il cuore spezzato. Esattamente come ha fatto in quei per noi. Questo è Rock and Roll Suicide. L'ho scelta perché Ziggy Stardust moriva e nasceva il Duca Bianco. Oggi Rock FM muore, nascerà sicuramente qualcosa di ancora più bello. Rock and Roll Suicide. Your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Ship breaks a snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. Right. Ehi, sono Maurizio Faulisi. Quello del country, quello del rock and roll e quello di GarageLand con il Matthews, l'avete sentito? Sono uno che parla un casino. E sono uno che non riesce mica a stare zitto. E così avevo un timore, avevo un terrore pazzesco che certe cose non venissero dette. E le ho dette qualche giorno fa. Voi le avete sentite? Ecco, io credo di aver detto tutto quello che c'era da dire riguardo questa vicenda. Riguardo come sono andate le cose, che cos'è stata Rock FM per me. Ho immaginato cosa fosse, cos'è Rock FM per voi. E oggi io credevo di mettere soltanto una canzone. Ed è questo che intendo fare. È una canzone di Buddy Holly. Nessuna sorpresa, perché ha imparato a conoscere il Faulisi. È un amore dichiarato da sempre. Buddy Holly è uno dei tanti, ma voi perché ha avuto una carriera discografica molto breve, 2 anni soltanto, o perché ha inanellato una serie di canzoni di una bellezza disarmante nella loro semplicità. Buddy Holly per me è la quintessenza del rock and roll anni 50, non il rock and roll che voleva esprimere ribellione dal conformismo dell'America di allora. Le sue erano semplici, amabili, tenere canzoncine che rispecchiavano il suo sorriso sincero e trasparente. Nelle canzoni di Buddy Holly è celebrata l'innocenza dell'adolescenza e in questo senso il batticuore della batteria di Peggy Sue è esemplare. Alcune sue canzoni in particolare ti fanno ricordare il sapore del primo bacio. La canzone che ho scelto è tra le meno conosciute del suo repertorio, si intitola Take Your Time. Dicono che il rock and roll sia morto il 3 febbraio del 1959, quando Holly scomparve per un incidente aereo. E per una serie di avvenimenti il 59 in effetti fu un anno molto difficile, ma il rock and roll non morì. Ci chiudono la radio, ma il sogno rimane vivo. Questa canzone è per voi. Ehi, questa canzone è per voi. Bella, semplice. Un po' Tex-Mex con il suono del Farfisa, tutta da ballare. E il Faulisi ora si alza e se la balla con voi, quindi su il volume e il morale. Questo è Buddy Holly. Take your time, I can wait, for all the love I know will be mine if you take your time. Sing like a string of twine if you take your time. Take your time and take mine too. I have time to spend. Take your time, go with me through. Time's till all time's in. Take your time. I can't wait for all the love I know will be mine. Take your time. Take your time and take mine too. I have time to spend. Take your time, go with me through. Time's till all time's in. Time, I can't wait for all the love I know will be mine if you take your time. Take your time. Sono Giulio Caperdoni. Io invidio molto i miei compagni di viaggio. Li invidio molto perché... perché loro sono riusciti a prepararsi un discorso e sono riusciti a fare un discorso. Max, fai pure partire il pezzo, grazie. Io questo discorso non l'ho preparato. Ho chiesto anche l'aiuto di Max alla regia. Perché non sarei riuscito neanche a far partire la canzone. Il discorso non l'ho preparato perché sapevo di avere un'autonomia di veramente pochissimi secondi. E quindi vi saluto qua con questa canzone che vi farà, spero, viaggiare. Thank you. Sì. Sono Edo Rossi, popolo di Rock FM! Ragazzi, ho schiacciato un miliardo di volte il pulsante per accendere il microfono ed è sempre stata una gioia. Questa cazzo di volta non l'è stata per niente, però. Però io ho anche un messaggio per quelle persone che non hanno nome e che, insomma, da un certo punto di vista, sapete, nelle grosse aziende, eccetera, tutte queste cose, bla bla bla, non si sa mai di chi è la colpa. Ragazzi, una cosa è certa, non ci avete capito un cazzo. Quello che vi voglio dire io però è che questa cosa, io spero naturalmente che Rock FM e questa esperienza sia servita a, servirà quantomeno per costruire delle cose un domani. Però ragazzi, quello che vi dice Edo è: rimboccatevi le maniche, perché al momento la canzone è rimasta la stessa. Con irruenza, Edo Rossi, alla prossima. Allora, sono le 17:28 minuti primi, io mi scuso se in questo momento vi do le spalle, vi chiedo una cosa prima di iniziare quello che devo dirvi, se gentilmente uscite da quello che è il porticato, ci è stato chiesto, me lo fate di cuore questa cosa, se uscite vi spostate indietro, lasciate libera l'area qua sotto, ve lo chiedo veramente di cuore. Poi vorrei dire anche io più di due cose, se gentilmente lo fate. Ok, oggi è il mio compleanno, molti di voi che sono qua sotto hanno gentilmente portato tantissime cose. Io sono nato il 31 maggio del 1958, grazie Max, quindi Max mi chiude, ecco, ci siamo. Scusate naturalmente, oltre a quello che volevo dirvi prima, il fatto di la mia voce un po' può andare, salire, scendere, rotta dall'emozione. Già questa situazione io l'ho vissuta per 14 anni come disc jockey a Radio Peter Flowers, una radio che è arrivata anche 15 anni fa alla chiusura. Erano altri tempi per me, un po' più giovane sicuramente, magari più scazzato, più spensierato, e l'avevo presa in un altro modo. Ora arrivo a 50 anni proprio quest'oggi, 15 anni qua a Rock FM, dentro non è semplice, non è facile, mi scuso ancora per l'emozione, come ho già detto prima, non è facile portare a termine quello che voglio dire, e ci provo naturalmente. Ringrazio tutti coloro che in questi 15 anni mi hanno sopportato, mi hanno ascoltato, mi hanno magari anche amato, qualcosa forse sono servito per qualcuno a far conoscere un po' di musica, del buon rock. Ringrazio veramente di tutto cuore queste persone. Grazie. Ora, tante cose le hanno già dette, le hanno espresse come concetti i miei colleghi. Io ho scelto una canzone che si intitola Catch the Rainbow. E parlo di colleghi, ma di amici, di persone che hanno portato avanti, se non per 15-14 anni, al mio fianco, e sono qua tutt'oggi questa avventura. Catch the Rainbow è praticamente spiega di prendere l'arcobaleno. L'arcobaleno arriva dopo, non sempre, però qualche volta arriva dopo un temporale, dopo una tempesta. Quale può essere, a livello metaforico, la chiusura quest'oggi di Rock FM, la scomparsa di Rock FM. Però a volte arriva l'arcobaleno. Sono 7 i colori. Li portiamo a 10, siamo in 10 noi. Aggiungiamo il rosso, il giallo e l'azzurro e lo riportiamo a 10, come lo staff attuale di Rock FM. Io auguro ad ognuno delle altre 9 persone di prendere un colore, di prendere questo arcobaleno che metaforicamente nel suo arco, grande o piccolo che sia, li porti in un'altra situazione di lavoro, di passione, come è stata per 15 anni Rock FM con tutti loro. Auguro di tutto cuore che tutto questo che hanno fatto al mio fianco per tutti questi anni serva a loro per arrivare ad un'altra situazione di lavoro e magari al termine di questo metaforico arco dell'arcobaleno ritrovarci tutti insieme, questi 10 colori al termine. Catch the Rainbow, i Rainbow. Grazie. When Di iniziare io voglio sentire l'urlo della gente giusta. Io ho detto voglio sentire l'urlo della gente giusta. Allora cari amici, io ho sentito molta commozione nelle parole di tutti. Questo è giusto, di fronte alla commozione non c'è niente da fare. Però ricordatevi che se loro amano i soldi, noi invece amiamo la libertà, amiamo la musica, amiamo il blues, la musica più bella che ci sia. Noi dalla radio, ai quali io mi associo per le belle parole che hanno detto, noi dobbiamo affacciarci e vedere quella gente. Quella è la gente che conta nella nostra vita, non quelli che chiudono la radio. E io voglio solo finire dicendo una cosa, io sono un vecchio hippie, lo sapete, però ci sono tre cose che io amo: peace, music and love. Love, peace and music. E questa è la cosa che accomuna tutti noi di Rock FM. Andiamo avanti così perché la strada da percorrere è ancora molto lunga. Ciao ragazzi! Grazie Fabio, ciao. sono l'ultima a dover fare i ringraziamenti e a dover, insomma, ho un compito ingrato e vorrei farlo un po' alla Claudia, quindi vorrei iniziare con un vaffanculo! Sì! Sì, perché sono profondamente triste, delusa, arrabbiata per questa chiusura. Non è un'ingiustizia, Infatti io in questo momento voglio i miei colleghi qui con me, perché con loro ho condiviso... Non ce la faccio. No, vai. Sì, ce la faccio. 15 anni meravigliosi. Vabbè, 15 anni meravigliosi. E che momento trash che sto regalando ancora una volta. Sono stati 15 anni meravigliosi. Sono tra l'altro felice, tra virgolette, di aver condiviso anche questa fine con i nostri ascoltatori, che in questo momento sono giù con noi perché sono splendidi. E chiusura in stile Claudia, poche parole, un po' confuse, con tante lacrime, però con tanto amore. E giustamente ho scelto i Pantera con This Love. Questa la voglio dedicare ai miei colleghi, a tutti quelli che stanno ascoltando, a tutti quelli che ci hanno sopportato in questi anni che, ripeto, sono stati fantastici. Non mi vengono le parole, mi vengono tante lacrime, però non lo so, così, però vi amo, vi voglio tanto bene e vaffanculo, va. allora queste sono le ultime note di This Love dei Pantera, la canzone con la quale tutti noi ci siamo presentati davanti al microfono per ringraziarvi e salutarvi. Io vorrei aggiungere una cosa, perché in effetti purtroppo oggi manca una persona qui con noi, avremmo dovuto anche chiamarla al telefono, ma le emozioni, i tempi sono stati davvero serratissimi, e quindi chiederei un grosso applauso per gli amici che sono qui sotto, ma anche quelli che sono a casa, per un maestro che ha onorato questa radio negli ultimi anni, e lui si chiama Roberto Fricantoni. Grazie Roberto! Roberto, come sapete... Roberto, come sapete, purtroppo ha avuto un incidente, quindi ancora la sua forma fisica non è al meglio. Diciamo che contiamo di poterlo convincere a venire domani sera a Firenze, anche perché forse ancora non l'abbiamo detto abbastanza, ma noi tra qualche minuto chiuderemo un'esperienza che si chiama Rock FM, ma il cuore di tutti noi, e quando dico noi intendo anche quelli là sotto e quelli che stanno ascoltando da qualsiasi zona nella quale siete connessi anche con lo streaming, ripartirà, perché questa è una famiglia di rock and roll, la Rock Family continuerà. Domani abbiamo deciso di fare festa, perché questo è l'atteggiamento giusto, e quindi domani sera saremo alla FLOG di Firenze e vi invitiamo a presenziare con noi a questa grande festa di rinascita. www.rockfamily.it. Ecco, come sapete, abbiamo ognuno di noi ha sviscerato con il microfono aperto per questo ultimo saluto le cose e le emozioni che abbiamo vissuto in 18 anni. In questo ultimo periodo della radio è nata davvero in maniera spontanea un altro meraviglioso sogno. Io parlo in questo momento davvero a titolo personale, nel senso che ho il piacere di condividere questa esperienza a Rock FM con molte persone che sono anche dei musicisti, che hanno della band, che è stato sempre un po' il mio sogno fin da quando ero piccolo, è un sogno che è diventato realtà grazie alla Rock FM All Stars Band. Quindi noi abbiamo deciso che, visto che mancano davvero pochissimi minuti a quello che sarà l'ultimo momento di vita e della storia di questa grandiosa radio che si chiama Rock FM, abbiamo deciso di chiuderlo proprio suonando una canzone con la Rock FM All Stars Band qui dal vivo, una canzone che abbiamo scelto non a caso. Tutti noi abbiamo espresso con il cuore la speranza e la certezza, direi quasi, che tutto ciò non può finire e che noi continueremo a fare del rock and roll in un mondo libero. Sì! 1, 2, 3! Keep on rocking in a free world. Keep on rocking in a was a lie for the homeless man. We got a kinder, gentler machine gun hand. We go to department stores and toilet paper. Got a strap from boxes for the ozone lord. Got a man all the people say keep over life. Got a fuel to burn, got a road to drive. Yeah, keep on rocking in a free world. La finestra gentilmente. Non pote. Vi va di entrare nella leggenda insieme a noi. Keep on rocking in a free world. Dai cazzo! Keep on rocking in a free world. Keep on rocking in a free world. Non può finire così, eh. Non può finire così. Allora vi chiederemo l'ultima grande cortesia della storia di questa radio. Mi auguro possiate sentirmi in questo momento, perché stiamo per chiedervi davvero l'ultimo grande sforzo. L'ultimo momento di questa radio lo vorremmo vivere insieme a voi. Quindi noi stiamo scendendo con gli strumenti, continueremo a cantare qua in mezzo, se vi va. Entrate nella leggenda insieme a noi. Questa è Rock FM. FM. Per chi non è con noi in questo momento, non c'è neanche bisogno di dirvi che questa è Rock FM, una radio che per 18 anni ha deciso di parlare, farvi conoscere, vivere le emozioni del rock and roll. Non abbiamo mai pensato a nient'altro, non è mai entrata la politica, non è mai entrato nessuno a romperci i coglioni, a parte quelli che ci chiudono. Noi crediamo fermamente nel rock and roll. Abbiamo parlato, abbiamo suonato rock and roll per 18 anni e quindi questa radio non poteva che concludere la sua esperienza con tutti noi, insieme a voi che siete qua sotto, in via Vittor Pisani, perché il grido è solo uno. Keep on rocking in a free world. Keep on rocking in a free world. Yeah. Keep on rocking in a free world. Stiamo arrivando, eh? Keep on rocking in a free world. Non perdete la voce perché adesso andiamo avanti a oltranza. Keep on rocking in a free world. Forza, che le chitarre sono già sotto. Veniamo da voi perché è giusto così. We keep on rocking in a free world. Vai, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù,